ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Buon anno, benvenuti a Dedicato, prima puntata del 2024. Bene, noi abbiamo festeggiato, abbiamo mangiato, abbiamo giocato, abbiamo fatto insomma l'impossibile di quello che si poteva fare per salutare il nostro 2023, che è stato, devo dire, un anno interessante e pieno di avvenimenti. Belli e brutti non stiamo qui ad elencarli perché ci metteremo un anno a fare questa cosa. Quindi, intanto, grazie a tutti per aver passato il 2023 con noi, perché voi forse non ve ne rendete conto, ma siete veramente tantissimi. Mi scrivete, mi telefonate, mi chattate i vostri complimenti, ma non solo, anche interessamenti proprio sugli argomenti che andiamo a trattare. Quindi, veramente grazie a tutti gli ascoltatori di Dedicato, perché siete fantastici, meravigliosi, direi. Bene, oggi andiamo ad ascoltare anche gli auguri di molti degli ospiti che sono stati qui con noi nel 2023 e arriveranno nel 2024, quindi abbiamo già anche delle anticipazioni. Ci hanno mandato tutti i loro auguri, li troverete sparsi per la puntata. Ora io mando il primo brano musicale, perché sì, perché vogliamo continuare a ballare e a divertirci sull'onda del Capodanno. E poi chissà. No, adesso io mi devo vedere della gente che balla qua in radio cercando di buttarmi fuori dal mio studio radio, quindi... Colpa tua, vuoi pubblicare canzoni brutte? E ballano. E fanno suoni. E danno fastidio. D'altronde hanno 17 anni. Mettono della musica... Vabbè, non commentiamo perché la musica è tutta bella. È tutta bella la musica. Brave, fate gli astri, bravi. Oh, finalmente, gli astri, dai, avanti. Digi digi da. Ecco, non andava. Non va mai bene niente. No. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. Tempo, però va bravi, no, dai. Va bene, va bene, vai, va bene, vabbè, dai, continuiamo. E poi rimettiamo, certo, vabbè, facciamo allora, tutta la trasmissione. Non mi fai sedere, così, no, scusate. Oggi devo andare qua, via prima, cioè andare deve andare anche via prima, quindi per fortuna. Bene, come al solito, lo studio di Dedicato è il delirio più totale. Dopo questa incursione dei nostri giovani fantastici musicisti, mandiamo, direi, un momento serio, oggi veramente molto serio, che è il tutorial della nostra mascotte. Ciao ragazzi, allora, oggi, visto che sono a casa con la febbre, vorrei fare una cosa con voi. Io non so fare gli origami, quindi poi, se voi volete provarlo a casa, provatelo. Io non li so fare. Poi non venite a dire a me che sono fatti male. È un foglio di carta bianco. Io vi consiglio di usare quelli colorati. Io a casa non sono attrezzata, quindi se no, come più che origami, vi insegno a fare un cosino simpatico. Sapete quello delle sfide? Che ce l'avete presente, quello degli anni tipo 80, che facevano delle sfide con un cosino di carta? Bellissimo. Io ho sempre desiderato fare una cosa del genere, quindi la nonna me l'aveva insegnato non tanti giorni fa, cioè non poco fa, però me lo ricordo ancora perché spero di avere la memoria più lunga di qualcun altro. Prendiamo un foglio di carta, gli togliamo un pezzo, era malissimo perché non ho usato le forbici, l'ho strappato così. Allora, gli togliamo il rettangolino. E dopodiché facciamo un triangolo, pieghiamo un triangolo da una parte, una dall'altra e poi stessa cosa dall'altra parte. Perfetto. Dopodiché la giriamo e pieghiamo i lati triangoli qui, cioè lo pieghiamo dietro. Verrà malissimo perché non mi ricordo come si fa, cioè sì, me lo ricordo, però un po' incasinato perché non lo faccio da tanto tempo. Allora finisco così, faccio tutti e quattro gli angoli e dopodiché giriamo. Vi ricordate i triangolini che abbiamo fatto all'inizio? Vi saranno venuti dei cosi che dobbiamo piegare verso l'interno per infilarci le dita, perché sennò è tutto incasinato. Perfetto. Ora siamo veramente in live, perché lo sto facendo veramente. Infine, io mi fido di voi, quindi non ditelo a nessuno. Scrivo delle sfide. Ad esempio, fai 8 giravolte, dici ti amo a qualcuno e così via. Sopra vi ritroverete dei triangoli e uno spazio in mezzo, colorateli. E io, e le storie tese. Nel mentre vi intrattengo con un brano musicale, e io, e le storie tese. E io, e le storie tese. Ora coloro tutto quanto. Ho quasi finito, me ne mancano solo due. Un, due, finito! Sì. Se vi è venuto, ho spiegato bene, se non vi è venuto non ho spiegato bene. Mitici di Radio Fucico, comandiamo! Io sono The Big Drummer, Ivano Zanotti per voi e volevo fare dei grandissimi auguri di buone feste, buon Natale, buon inizio, buon fine, buon tutto, divertitevi alla trasmissione dedicata della mia amica Erika E mi raccomando, sempre We Will Rock You. Ciao! Just confess your girl admits that we the F-R-E-S-H, we fresh G-E-F, that's right, we def. We definite, B-E-P, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Right here. Do wanna hate on us? Do need to ease on up? Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Shuck? Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gonna turn it up, turn it up, turn it up. Black Eyed Peas, Pump It. Bene, continuando a festeggiare questo 2024 appena arrivato, noi vi ricordiamo che la mostra Suoni, Colori e Ritmi delle Percussioni sarà ospite alla Fondazione Gualandi in via Nosadella 51A fino al 17 gennaio, quindi avete le ultime due settimane per andare a visitarla. È una roba eccezionale perché gli strumenti a percussione presenti nell'esposizione si suonano, quindi andate lì e suonate. E devo dire che tutte le persone che sono venute finora sono uscite col sorriso, quindi per noi questo è un regalo per il buon anno. Invitarvi ad andare a vedere questa mostra di strumenti a percussione. Allora, abbiamo delle date da darvi che sono l'11, il 12 e il 14 gennaio. Dalle 16.30 alle 18.30 la mostra sarà aperta, oppure l'8 e il 17 gennaio dalle 10 alle 12, quindi in mattinata. Il 15 di gennaio invece ci sarà un mega evento finale di saluto di questa mostra. Concerti, presentazioni, chiacchiere con musicisti di un certo spessore, poi ci sarà la premiazione del concorso creativo al quale hanno partecipato le scuole e i bambini della città, quindi insomma tanta roba. Il 15 gennaio dalle ore 15 alle ore 19 sempre in via Nosadella 51/A. Per qualsiasi tipo di informazione potete scrivere a info@agendaproduzioni.it. E vai, vai, vai, tutti sul Brucomela, un giro 1000 lire, tre giri 3000 lire, amiche e amici di Radio Città Fujiko, ospite oggi della nostra trasmissione dedicato c'è Avadotto, numero 1, Soddintino, tante buone feste, mi raccomando, giocate la tombola, mi raccomando, 77 Lucoscia delle Fommene, auguri da Cristian Ginepro. Sì, vedi, perché questa, vabbè. Perché Beethoven ha scritto quella nota? Perché ci sta bene. Ci sta bene, sì. Ma se facessi questa? Nel frattempo abbiamo quell'altro che sta accordando l'ukulele. Ci prova. Bene, bene. Poi c'è il batterista folle qua che non si capisce cosa fa. E il pianista, che è anche batterista e nonché percussionista e nonché sa cantare, si è fissato con Per Elisa, non sappiamo perché, non l'abbiamo capito, e vuole cambiare le note che ha scritto Beethoven. Signori, questa è la nostra realtà, siamo messi così. Sì, però non ti arrabbiare. And I want for you Christmas. There is just one thing I need. The light. I don't care about the present. But I like underneath the Christmas tree. Scusa, l'hai studiato il testo? Sono i nostri auguri natalizi 2023. Hai studiato il testo di sta canzone? No. Ma è un anno che la dobbiamo preparare. Non hai studiato? Niente. Zero. Nessuna parola. I just want you from my own. No? Niente. A tu gomma da loro. Sì, vabbè. More than you could ever know. More. Adesso questa frase la fai tu, per favore. Make my wish come true. Make me wish come true. Perfetta. All I want for Christmas. Il finale insieme. Is you. Ma no, true, ma no, buon Natale, buone feste! Yeah! Uppa neghi, una strada, uppa brava. Dici che cosa mas linda, uppa neghi, come sa tu anda, come sa tu anda, come sa tu anda. Ecco, in ottimo clima di Capodanno, sembra, e noi stiamo ancora festeggiando il Capodanno qui a Dedicato. Bene, i nostri giovani musicisti se ne sono andati, ma sono stati abilmente sostituiti da due giovanissime musiciste che effettivamente si sono fatte sgridare prima mentre eravamo al bar, perché in una nostra pausa siamo tutti allegramente andati a prendere un caffè e fare una merenda, e loro hanno iniziato a giocare a nascondino dentro al bar, e la barista le ha gelate prima con lo sguardo e poi con le parole. Loro sono abbastanza indignati di questa cosa, ma non ho capito, bimbe, cos'è? Scusate, cioè, lei è strana a volte. Perché tu no? Comunque comunque stavamo dicendo. Allora, che cosa stavamo dicendo? Cosa stavamo dicendo? Vabbè, comunque, da che stavamo mangiando, ci siamo alzate, stavamo giocando a nascondino, e vabbè, poi non si può giocare in un bar perché sennò disturbiamo. Ci ha sgridata quella là che non abbiamo fatto niente. Guardate, è veramente strana. Buona. migliori auguri di buon anno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Dedicato da Nassau. Ah, mi raccomando, fate bravi pirati. Mascot, bentornata in studio. Ciao, buon anno. Buon anno? Buon anno. Buon anno, il 3 gennaio si dice buon anno, cosa vuoi dire? Ma non eravamo a Ferragosto? No, ascolta, tu sei andata a giocare a nascondino in un bar con l'altra bambina molesta che c'era qui in studio e avete fatto un caos oggi, cioè avete fatto arrabbiare la barista, proprio un disastro. Com'è? Buon anno? Buon anno, sì. Questa cosa del nascondino ne vogliamo parlare? Buon anno. Buon anno, ok. Voi bambini, niente, non date motivazioni. Buon anno! Ok, buon anno. Buon anno! Ok. Buon anno. Che buon anno? 2025. Lanciamo un brano, va, per favore. Allora? Per favore. Lanciamo un brano. Happy di... Buon Ferragosto! Pharrell Williams, Happy. Vabbè. Lo puoi dire? Happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy, happy, happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Quindi auguri di buon anno dal Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo 15 di Bologna. Evviva il Comitato Genitori! Ciao! Buon anno! Buon anno! Buon anno! Buon anno! Buon anno! Senti, scusa, Mascot, mi ricordi Pollon? Hai presente quel cartone animato? Buon anno! Cioè, la dea della musica, no? Quella bambinetta simpatica. Ecco, mi ricordo, sembra, canti come canta lei, non so come dire. Adesso, fai una roba. Fammi un arpeggio di buon anno. Buon anno. Questa era una scala. L'arpeggio è? Buon anno. No. Buon anno. Ok. Buon anno. Sì, un po' più intonato con le note precise. Buon anno. Va bene, anni e anni di musica e la mascotte sa questo e altro. Buon anno. Potere provare a pensare a feste natalizie senza rancore, soprattutto nei confronti dei vicini di casa, un sogno fantastico verso l'universo. Un bacio e un abbraccio da Mara Redeghieri. Grazie, grazie a tutti, a chi ha contribuito a fare di questa puntata una puntata fantastica, come fantastico speriamo sarà questo 2024. Quindi davvero auguri di buon anno da tutto lo staff di Dedicato, e oggi la diciamo tutta. Oggi è dedicata a The Big Drummer, Ivano Zanotti, dedicata a Mara Redeghieri, dedicato a Nassau, dedicato al Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo 15 di Bologna, dedicato a Cristian Ginepro, il nostro dintino nazionale, dedicato ai nostri fanciulli musicisti che popolano e vivono quotidianamente il nostro studio e alle nostre mini fanciulle musiciste, dedicato alla mascotte e dedicato a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci sostengono, supportano e sopportano da mesi sulle frequenze di Radio Città Fujiko tutti i mercoledì alle 13. Quindi ci risentiamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti, auguri! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più.